Dal 12 al 14 maggio al VAG 61 si festeggeranno i 10 anni di OpenDDB, distribuzioni dal basso. Io ovviamente non posso che non parlarne con Paco, quindi do il bentornato ad Andrea Paco Mariani. Ciao e bentornato appunto ai nostri microfoni. Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Devo dire che avete deciso di festeggiare in grande questi 10 anni di OpenDDB con 3 giorni ricchi di eventi, tra l'altro in uno dei vostri luoghi del cuore, no? Il VAG 61. Ti volevo chiedere come mai avete deciso di mettere su questa bella festa appunto per i 10 anni di OpenDDB, da dove parte l'idea? Ma allora sicuramente 10 anni sono un traguardo importante per qualsiasi progetto di natura anche culturale, e nel nostro caso ci tenevamo molto a condividere insieme alle persone le realtà e le comunità con cui da tanti anni a questo punto facciamo, distribuiamo e produciamo cinema, e non solo cinema, creando un momento particolare, chiaramente una tantum, nel senso che OpenDDB non si occupa di fare un proprio festival, almeno però per adesso, tutti gli anni, però questo è un traguardo che ritenevamo molto importante da condividere, sia per tirare un po' le somme di questi primi 10 anni, ma anche per immaginare insieme i prossimi 10. Ovviamente la location VAG 61 è fondamentale perché è il centro sociale, come giustamente accennavi, dove il progetto è nato 10 anni fa, è nato, è cresciuto e si è sviluppato, e quindi lo festeggiamo a casa. Tra l'altro festeggerete anche il nuovo sito, immagino che insomma anche questa è una novità di qualche giorno, ecco. Sì, esatto, il sito è andato la nuova release è andata online il 15 aprile di quest'anno 2023, che è il giorno esatto tecnicamente del decennale, nel senso che la prima piattaforma online proprio il 15 aprile di 10 anni fa. Era da un po' che stavamo lavorando su una ristrutturazione del sistema che è andato online, il precedente era andato online 7 anni fa, quindi ormai aveva necessità di andare in pensione, tra virgolette. Già oggi, già in queste settimane, andando su openddb.it potete vedere la nuova release, che non solo ha un'interfaccia completamente nuova, ma anche tutta una serie di migliorie, di tools e anche di nuove sezioni che per adesso non si vedono perché andranno a regime dall'autunno, sulle quali ci apriremo all'interno del catalogo. Tornando un po' a parlare del festival, dicevamo sarà dal 12 al 14, quali saranno i film, i documentari in proiezione per questi 3 giorni e quali gli ospiti? Perché so che ci saranno anche dei bei ospiti. Il programma è molto ibrido e secondo me rispecchia un po' anche la natura ibrida di OpenDDB, nel senso che OpenDDB nasce come piattaforma digitale e catalogo di documentari e di autrici e autori indipendenti, ma negli anni si è in qualche maniera mescolata e meticciata anche con altri tipi di progetti culturali, vuoi l'editoria, vuoi le animazioni, il fumetto, piuttosto che i nuovi formati che arriveranno dall'autunno, cioè che saranno principalmente anche il podcast e le inchieste brevi. Quindi il programma rispecchia molto la natura ibrida della piattaforma in qualche maniera. Noi partiremo il primo giorno presentando innanzitutto in apertura la mostra di militanza grafica con il quale stiamo collaborando già da tempo anche su altri progetti e che ci ha anche donato tutta l'interfaccia grafica del festival. Dopodiché presenteremo i 2 film in uscita per il 2023 di SMK Factory, che sono Care Seekers di Teresa Sala e Tiziana Francesca Baccaro, e Kissing Gorbachev del sottoscritto e di Luigi Dalife. Non saranno le presentazioni dei 2 film, nel senso non verranno proiettati, nel senso che i film usciranno nei prossimi mesi, in autunno e inverno, però sarà un'occasione per presentare sicuramente in anteprima delle immagini di entrambi i film e anche raccontare lo stato di lavorazione, perché Care Seekers, per esempio, In cerca di cura è pronto e stiamo programmando adesso l'uscita nei prossimi mesi, Kissing Gorbachev è ancora in lavorazione e faremo vedere in anteprima assoluta alcune preziose immagini raccolte in questi mesi di set. Mentre i giorni successivi il programma si articola in diverse modalità, nel senso che per esempio sabato tra le varie iniziative avremo anche la presentazione del bellissimo libro Cadono tutti i re del mondo di Elementi Kairos. Hanno prodotto negli anni dei libri veramente interessanti, per esempio Prossima fermata, che è stato firmato da Zero Calcare, Fiabe resistenti, Il mio nome è Amal, e Cadono tutti del mondo è uno dei nuovi libri della Fiera 2022-23 che vi consiglio caldamente di venire a sentire la presentazione dell'autore. Faremo poi sempre sabato una sessione con il collettivo Fada, la redazione Zic, Sofia Mardacchione e Cecilia Fasciani, dedicata al mondo del reportage e delle inchieste indipendenti, perché sarà una delle nuove aree del sito, della piattaforma che apriremo in autunno. E sabato poi avremo il momento di punta, che è il concerto dal vivo in Elettrica, concerto veramente imperdibile che non succede da un po', di Massimo Zamboni. Con Massimo stiamo collaborando da diverso tempo, non solo per Chi si ingorda, cioè perché chiaramente la cui presenza è fondamentale, visto che racconta tra le varie cose della tournée dei CGP in Unione Sovietica, ma stiamo collaborando anche su altre traiettorie. Noi abbiamo già in catalogo almeno due opere che riguardano Massimo direttamente, tra cui appunto Il richiamo degli scomparsi, che abbiamo presentato anche al Cinema Galliera qualche mese fa, ma in autunno arriveranno anche altre opere di e con Massimo Zamboni in catalogo, quindi una relazione che si sta consolidando in quest'ultimo anno, diciamo. Chiudiamo poi domenica con una domenica decisamente bella, nel senso siamo molto contenti della formula che abbiamo trovato. Diciamo che il focus della giornata sarà legato al Kurdistan. OpenDB è forse la principale piattaforma in Italia per quanto riguarda perlomeno il cinema e l'editoria, che ha sempre attenzionato molto i progetti culturali, cinematografici ed editoriali sul racconto delle narrazioni legate al Kurdistan, e parlo al plurale ovviamente per ovvie ragioni, perché sono tante queste narrazioni, per fortuna, e sono molto ricche. E quindi faremo prima un talk con Zehra Dogan, che non ha bisogno di presentazioni, è un'artista kurda di fama internazionale, e con Benedetta Argentieri, che è un'autrice italiana con la quale collaboriamo da tempo, e che non da ultimo ha prodotto e diretto The Matchmaker, che è un film del 2022 distribuito nelle sale italiane da Fandango, diretto appunto da Benedetta. Quindi diciamo che la domenica poi si chiuderà con un focus tematico sul Kurdistan, ma anche lì cercando di in qualche maniera legare tra loro diverse forme di narrazione, quindi Zehra Dogan con il percorso artistico che ha fatto in questi anni di carriera, e Benedetta invece con un linguaggio, uno storytelling molto più vicino a quello che facciamo anche noi, perché è una documentarista come noi, con una grande esperienza, anche perché Benedetta ha diretto molti film che probabilmente avete visto e conoscete, e quindi sarà per noi un piacere chiudere con questa duplice veste sulla domenica.